verrà, forse verrà, ma non lo spero. L'anguille per una bella e star lontan, la qua. A ciò non devi pensar. Vieni e vedrai un bel volto, un bel cuor, con tutto il resto. Oh, cuore, amor mio, che imbroglio è questo? Thank you.

Thank you. una scaltra è un precipizio. Meglio un turco che un piccone. Meglio il fiasco che l'ampione. Meglio un turco. Meglio il fiasco che un piccone. Che l'ampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Spagna al diavolo in malora. Più ne voglio più ne voglio dei garrini. Buonanotte, sì signora, ho finito d'impazzir. Vannadio, buonanotte, volo in malora. Buonanotte, più ne voglio, ho finito d'impazzir. No, no, buonanotte, vannadio, sì signora, nel campo, più ne voglio dei garrini. Finito, finito, finito, finito, finito, finito, finito, finito, finito. Ma quel sarà Quest'alma sarò, quanto dolce a quest'alma sarò.

spezzola sul collo, ma conviene di dissimulo, ma conviene di dissimulo. Maltrattata dalla sole, condannata alle Thank you. si è stupidi, incerti vedono, non so comprendere tanto. Si è stupidi, oh mio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami, non rispondere. Confusi e stupidi, incerti vedono, non so comprendere tanto. Incerti vedono, non so comprendere tanto. Si è stupidi, oh mio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami, cercami spento. Si è stupidi, incerti vedono, non so comprendere tanto. Oh mio che fulmine, non so rispondere. Thank you. stesso Dio, su questo lido trovo l'indoro e lo ritrovo in fido. Or ti leggo, la nota resta, adorata e sua bella, in che peccai che mi fuggi così? Lo chiedi ancora, tu che sposa del vino? Io, e di con burla non risposarla ho tempo, e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti. Mi creder posso? M'incene di un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede. Dai cuore, che caro l'amor mio, la notte breve. Che far debbi? Fuggir dobbiamo insieme. Quelli stesso voscel qualche raggio, qui bisogna intrecciar. Sai che una donna non va di me più intraprendente ardito. Cara Isabella, tu mi torni in vita. T'attendo nel boschetto, inosservati, concerteremo i nostri passi insieme. Se pare non ci trovo. Verrò, mi assieme. Oh, come il cuore di giubilo esulta in questo istante, giovani la nata per sua crudeltà. Sol questi amor coi doni, questi tuoi diventi, a tu sostenga e lini la felicità. O come il cuore di giubilo esulta in questo istante, esulta in questo istante. Questa signorina è tale che io ne sembro innamorato. Ah, signor Mustafa! Che cos'è stato? Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in alceri è un complimento. Eccolo, ahimè! Non dubitare, e vieni d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto mi cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Oh, Satan, io non capisco niente. Vuol dire luogotenente. E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria va destinato. Appunto, amico mio. Grazie, obbligato. Un gran peso sulla testa, in quest'abito mi imbroglio. Se vi parlo, scusa onesta, caimata, e se non voglio, ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. Ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. Fare un conto, se ricuso, il palo è pronto, e se accetto, è mio dovere di portarmi le candeliere, a Taddeo che vivi è questo, a Taddeo che vivi è questo, ma quel palo, da quel palo, io presto non ti voglio disgustar. Caimacan, signor, io resto, non mi voglio disgustar, no. Caimacan, signor, io resto, non mi voglio disgustar. In bocca al lupo, pecora si fa, sono le mogli fra noi, quelle che formano i marini. Or suffo dal mio mondo, in questa stanza ritiratevi. E poi vedrete come Mustafa farò del zar la testa. Che spirito ha costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti e sarà qui, finiamo da vigliarci, che li venga. Oh, se viene, or tutta l'arte a me adoprar conviene. Oh, senza di lei, andate e conducetela. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Presento di mia mano Ser Taddeo Caimacan. Ti presento Ser Taddeo Caimacan. Faccio aprendi quanta stima di te faccia Mustafa. Faccio aprendi quanta stima dite faccia Mustafa. Oh, Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese. ma va ben che l'impari a proprie spese. Thank you. francesi nati son per farsi amar, italiane son cortesi nate son per farsi amar. Ma intorno ai miei paesi anche questa è la contare. E gli altri miei paesi nate queste per farsi amar. Thank you.

cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna, e a seco il foro dei pappataci. Ed onorarmi dunque la bella, a tanta fretta. E l'amor che la sprona. Oh, benedetta. Spalle e schiattar Spalle e schiattar piacere tutto quel che si vorrà. Io farò con gran piacere tutto quel che si vorrà. Tu sei la mia, sempre la mia, vento, questo è un tradimento. Campati, urlati, ne siamo, signor, ne siamo campati, signor. Io son pappataci. Ma quei? Mangetaci. Ma voi? Lascia far. Ma io? Lascia dir. Voi me, che ho da far? Voi me, che ho da far? Restar o partir? Restar o partir? Quel palo, se resto, se parto, il lampione, l'indoro, Isabella, son qua con le buone, a tutto l'adatto, non so più che dir, a tutto l'adatto, non so più che dir. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。